Giovedì 13 maggio del 2010, 14, un minuto primo. 87.900 la modulazione di frequenza, questa è Radio Onda Rossa e con Visionari, il consueto appuntamento della settimana con il cinema, come ogni giovedì dalle 14 alle 15. Tutte le informazioni le trovate sul sito della radio www.ondarossa.info, alla voce trasmissioni ci sarà, cioè, troverete la scaletta di quest'oggi con gli ospiti di questa puntata, poi le uscite di domani in sala, i nostri suggerimenti sui film già in programmazione a Roma e nel Lazio, e poi il link per riascoltare la puntata precedente per dare un'occhiata a interviste, conferenze stampa, recensioni e presentazioni e i film su piccolo schermo segnalati per quanto riguarda la settimana televisiva. Cominciamo con i nostri ospiti. Con noi Valentina Monti, regista del documentario Girls on the Air. Pronto, ben trovata. Pronto, buongiorno a tutti, buon pomeriggio. Tutto bene? Tutto bene, sì. Tutto bene. Sono a Milano. Bene, sei in Italia perché tu solitamente sei a Londra, io però non demordevo e infatti esatto, ti ho trovato infatti quando sono sei capitata. Abbiamo per lavoro una settimana e finalmente riusciamo a incrociarci, bene, almeno telefonicamente. Bene. Allora, un documentario che mi interessava molto, non ho ancora avuto modo di vederlo, ma lo farò presto. Allora, raccontaci un po' di cosa si tratta. Sì, Radio Sahar, Girls on the Air è quello del documentario, racconta la storia di Radio Sahar, che è la prima radio indipendente gestita da donne in Afghanistan. Esattamente, sì. Trasmette da Herat, che è al confine con l'Iran. E niente, è una piccola radio FM comunitaria, quindi il film racconta un po' la storia di questa radio e soprattutto della sua station manager, una giovane donna di 26 anni. Tu come la sei venuta a conoscere? Sì, io avevo già fatto un primo film 5 anni fa su un'altra radio indipendente che si chiama Radio La Colifata, che trasmette invece da un ospedale psichiatrico, e così ho continuato a sviluppare la mia ricerca sui media indipendenti, i media liberi, che sono quelli che più mi interessano, diciamo. Come Radio Onda Rossa, quello, ancora si parla del 2005, sì. Era un momento in cui si parlava molto di Afghanistan, per cui ho unito questi due forti interessi, diciamo, media liberi e Afghanistan, e ho cominciato a cercare in internet, ho scoperto una news riguardo a questa piccola radio e da lì è cominciato tutto, insomma. Dopo ho cercato di raggiungerle attraverso altri incontri che ho fatto e finalmente sono riuscita a partire per fare location in Afghanistan, questo nel 2006. Senti, come hai strutturato il lavoro? A livello produttivo o a livello creativo? A livello creativo, quando sei andata lì... Sì, ho fatto un primo giro, ancora a luglio del 2006, infatti il film ha avuto una lunghissima gestazione di 4 anni. Comunque un primo sopralluogo nel 2006, dove sono andata ad incontrare le ragazze della radio e ho passato con loro 20 giorni, dove ho girato, ma soprattutto dove ci siamo imparate a conoscere e avere fiducia l'una dell'altra, diciamo. Sì. Perché anche loro ovviamente erano molto poi invece curiose di sapere da dove venivo, quindi insomma è stato proprio un lento avvicinamento da entrambe le parti. Per cui un primo giro di location e poi siamo tornati invece a girare il film dopo aver cercato a livello produttivo dei finanziamenti nel 2008, alla fine del 2007, inizio del 2008, e siamo rimasta per un mese per girare il film invece. Tu hai seguito le attività quotidiane della radio, hai fatto interviste, come... No, il film non ci sono interviste dirette, okay. Diciamo è più nello stile del cinema verité, quindi comunque è un film dove la storia si sviluppa da sé, diciamo, come in una fiction. Non ci sono interviste, invece seguo comunque le giornaliste dove sono loro stesse a fare interviste, come nel loro quotidiano è, alla gente di Herat. Soprattutto seguo uno dei loro temi forti, che è quello sul divorzio, per cui seguo loro che vanno alla Corte di Giustizia e intervistano donne che sono lì a chiedere il divorzio. Diciamo che questa radio soprattutto si occupa di tematiche femminili. Sì. E quindi vabbè, ovviamente i reportage sono legati soprattutto a questo, però è molto interessante anche vedere come si svolge la vita dentro la redazione, la piccola redazione della radio, dove appunto c'è una società quasi un po' inversa a quella che poi c'è fuori, cioè c'è un gruppo di donne, un solo ragazzo che lavora con loro, quindi c'è anche molto quante sono le... tra uomo e donna. Quante sono loro? Come? Quante sono loro? Loro sono 8 e poi c'è un uomo appunto, un ragazzo. Sì. Senti, come funziona? Allora, intanto come è nata, come è riuscita ad aprire, come sono riuscite ad aprire questa radio e poi come organizzano quotidianamente il lavoro? Sì, loro sono nate nel 2003, sì. Quando all'inizio per un anno trasmettevano solo un'ora al giorno e sono state supportate da un NGO canadese inizialmente che gli ha fornito soprattutto, ha fatto dei training e gli ha fornito i primi strumenti, diciamo microfoni. Poi come sempre l'NGO abbandonano il territorio e quindi loro sono andate avanti da sole. Sì. E oggi per sopravvivere riescono a vendere degli spazi, sono totalmente autogestite e auto-organizzate, non hanno supporti governativi. Bene. Però riescono a vendere degli spazi, tipo, non so, o pubblicitaria delle altre NGO, insomma, se sono, diciamo, oppure riescono a realizzare servizi per altri da inserire nel loro calendario quotidiano, diciamo. Mm-mm. E quindi così riescono a mantenersi e a trovare dei fondi, diciamo, per autofinanziarsi. E per il loro di mese in mese più o meno fanno queste riunioni, fanno una riunione settimanale dove sì. organizzano la settimana. Sì. E poi questo succede il sabato, perché in Afghanistan il venerdì, diciamo, è la nostra domenica, quindi è il giorno di festa, per cui il sabato mattina c'è la riunione settimanale. Poi una volta al mese rivedono un po' il palinsesto, dove quello che funziona, quello che non funziona, decidono così di cambiare eventuali programmi. Ed è 24 ore al giorno? No, trasmettono no. 8 ore al giorno adesso, dalle 7 di mattina alle 6 di sera, più o meno questo è il loro... Il palinsesto prevede allora interviste e poi ci sono anche spazi culturali. Prevede vari programmi, vabbè, sì. Alcuni programmi di entertainment, diciamo, quindi anche un po' di musica, però soprattutto alcuni programmi di news, mattina, pranzo, ci sono alcuni programmi di news locali e qualche news sul nazionale invece. E poi soprattutto reportage legati appunto a un'informazione mirata ai diritti umani. Sì. Quindi in questo caso la popolazione ovviamente più in difficoltà in Afghanistan sono donne e bambini, per cui ci sono trasmissioni soprattutto che parlano di loro, non solo mirate a loro, ma insomma si spera mirate a tutto il resto della popolazione, anche soprattutto, cioè anche agli uomini, che così magari cominciano a capire un po' di più quali sono i diritti delle loro mogli. Senti, per le informazioni, penso ai notiziari, le loro strumenti, le loro fonti quali sono? Sono attraverso la rete? Sì, anche loro utilizzano anche internet, anche se ovviamente un utilizzo un po' diverso dal nostro. Sì. Però sì, agenzie di stampa, che ce ne sono in Afghanistan, anche indipendenti. E poi invece questo più sul locale, oppure loro stesse, insomma, fanno rete anche con altre radio per passare un'informazione sul locale. Sul nazionale ospitano anche magari notizie di altre... La radio è molto potente in Afghanistan, forse questo ho dimenticato di dire, ecco, però è veramente ecco. Il primo mezzo di informazione, molto più della televisione, che hanno in pochissimi, e molto più della carta stampata, perché c'è un livello altissimo di analfabetismo, per cui comunque non tutti possono leggere il giornale. Quindi ha una... La radio è il mezzo di informazione. È il mezzo di informazione. E sono nate negli ultimi anni radio indipendente, che sono anche in network fra di loro. Quindi c'è un bel movimento, diciamo, in questo senso, e anche agenzie di stampa, soprattutto a Kabul, in contatto con Radio Sahare, che quindi possono fornire notizie soprattutto sul nazionale. Ho due cose, Valentina, sì. Difficoltà a cui sono andata incontro e poi i progetti che hanno per il futuro, cioè tra le cose di cui sei venuta a conoscenza. Ma difficoltà tantissime inizialmente, sono state proprio minacciate di dover chiudere dal governo stesso, perché comunque era impensabile ancora nel 2003 una donna con un microfono. Mi hanno raccontato alcune cose proprio da... commoventi, diciamo, delle prime messe in onda, in cui veramente la gente telefonava in lacrime perché la voce di una donna in radio non si sentiva da anni. Mm-mm-mm. Per cui sicuramente difficoltà tantissime. Oggi sono comunque più accettate e comunque ci si sta, diciamo, abituando a vederle. Progetti futuri credo che fondamentalmente sia quello di continuare, perché nonostante nel film tu veda un quotidiano che funziona, come dove comunque c'è anche dell'ironia, del gioco, no? Certo, sì. È vero che loro sono sono potenzialmente sempre in pericolo, quindi anche solo il fatto di portare avanti questo progetto è, diciamo, un obiettivo che si deve riconfirmare giorno dopo giorno. Senti, nel momento credo che sia concentrato più su questo che non andare oltre, molto quello che stanno facendo. Valentina, hanno un loro seguito nella popolazione femminile? E poi allora intanto dimmi sì di questa cosa. Hanno tantissimo seguito, ci sono tantissimi ascoltatori che chiamano. È una radio comunitaria, quindi trasmette, ha un raggio di azione di 50 km intorno alla città di Herat. Sì. Quindi diciamo trasmette in Herat e nei villaggi della cintura intorno a Herat, verso il deserto. Per cui, ma io veramente sono andata, nel film si vede anche comunque i villaggi, diciamo, lontani dalla città, e anche lì si vede come comunque una radio ce l'hanno tutti, anche nei posti dove non arriva l'acqua c'è la radio, perché la radio va a pile, quindi è il mezzo più democratico, più economico, se lo possono permettere tutti. E questa radio arriva lì, la voce di questa radio, perché loro stesse, loro veramente lavorano nella comunità e per la comunità. Cioè, diciamo che il concetto del film è un po' questo, la democrazia può nascere solo dal basso, e loro veramente sono un esempio di una democrazia che sta rinascendo in Afghanistan, ma attraverso gli afghani, non attraverso le truppe, altro, diciamo, per non scendere in dettagli. Si sono date una loro visibilità organizzando anche iniziative pubbliche o eventi culturali? Ma diciamo che no, cioè non eventi estranei alla radio. Quello okay. che loro fanno è fare radio, sono giornaliste, sono tutte laureate, sono un primo gruppo di donne laureate dopo la caduta dei Taliban. Sì. Loro sono proprio le prime, quindi hanno creato questa radio insieme e lavorano in radio. È chiaro che la visibilità ce l'hanno attraverso la radio, comunque loro sono la redazione è aperta, gli ascoltatori possono venire in radio, parlare con loro, telefonare, fare richieste, cioè c'è molta interazione con il loro pubblico, però non esce questa situazione da, diciamo, rimane sempre legata alla radio. Senti Valentina, allora il tuo documentario è stato programmato all'interno della rassegna Italia Doc. Sì. Volevo sapere, per avere maggiori informazioni su eventuali proiezioni o presentazioni, c'è materiale in rete? Guarda, al momento il documentario che è distribuito dall'Istituto Luce sta girando moltissimo i festival internazionali ancora. Sì. Però certo, adesso stiamo facendo anche il sito internet, per cui ci sarà presto un sito internet con aggiornamenti rispetto alle date. In Italia spero di ripresentarlo ancora presto, insomma, in altre situazioni. C'è stata una prima proiezione a Roma, poi ha fatto qualche altra città italiana, però insomma siamo ancora in fase proprio di festival e insomma così, quindi spero di potervi informare attraverso un sito al più presto. Va bene, allora spero anche di risentirci magari, che ne so, in occasione di un'eventuale distribuzione. Esatto, okay. No, la distribuzione al momento ce l'abbiamo, vediamo dove riusciamo a uscire, insomma. Bene, allora speriamo. Terremo informati tutti e tutte coloro che ci ascoltano. Grazie mille, grazie a te, buon pomeriggio. Ciao, un abbraccio. Valentina Monti, regista del documentario Girls on the Air. Questa è Radio Onda Rossa, questa è Visionari. Claudio Cipelletti, regista del documentario Due volte genitori, ben ritrovato. Eccomi qua, mi sentite bene? Sì. Tu? Benissimo. Ok. Allora, ci siamo sentiti un anno fa noi, sempre. Ormai sì, la prima di Due volte genitori a Roma è stata a Nuovo Aquila a maggio dell'anno scorso, sì. E adesso dal primo maggio sarai nuovamente in programmazione a Roma, sempre al nuovo cinema Aquila, in un'occasione particolare. Sì, il 16 sera, la vigilia della giornata mondiale contro l'omofobia, abbiamo una proiezione che è davvero molto importante, perché purtroppo, come avrete saputo, continuano gli attacchi omofobi in Italia. A Bolzano tre giorni fa sono stati picchiati due ragazzi solo perché si sono sfiorati con un bacio in pubblico, in una normalissima serata all'uscita di una discoteca, a un chiosco, come tutti al mondo hanno diritto di fare, e quindi c'è stata un'aggressione violenta da parte di sette ragazzi, e queste cose continuano a succedere nonostante tutto, anzi a volte ci sentiamo ancora dire ma come mai avete ogni tanto tenete le cose nascoste, non è poi un problema, no? Mm-hmm. Si sentono questi discorsi. Mm-hmm. Purtroppo invece c'è tantissima ignoranza e tantissima violenza che non ho ancora capito bene per quale motivo si scatena così. Mm-hmm. E quindi occorre parlarne. E l'occasione Nuova Aquila, devo dire che Nuova Aquila ha fatto un lavoro splendido quest'anno, perché praticamente ogni mese, quasi tutti i mesi, da maggio dell'anno scorso, dall'autunno dell'anno scorso alla riapertura della stagione, ha programmato Due volte genitori. Mm-hmm. Due volte genitori è un film che non riguarda in modo diretto la violenza omofoba, sì, riguarda un tema molto più domestico, ma molto, dove può esserci una violenza molto più sottile, quella veicolata proprio dalla convivenza familiare all'insegna anche dell'amore, ma con tutte le difficoltà che si hanno in famiglia quando un figlio o una figlia dice di essere lesbica o gay. Cosa succede ai genitori, qual è il loro percorso, e da lì parte un po' tutto, cioè da lì parte la possibilità per una società di funzionare bene quando le persone si sentono bene in famiglia. Oh Claudio, come è partito il progetto e poi come lo hai sviluppato, i lavori che direzione hanno preso? Sul film? Sì. Sì, sì, è un film che è stato voluto dall'associazione, da un'associazione di genitori, AGEDO, che è l'associazione dei genitori parenti e amici di omosessuali. Quindi è proprio nato dall'esigenza sia di supportare le famiglie che fronteggiano il coming out dei figli, ma anche e soprattutto di parlare a tutti per informare e per far sapere, perché quello che sappiamo dall'informazione, dai media, è molto distorto ed è molto parziale. Quindi questa è stata l'esigenza, l'opportunità è stata un progetto del DAFNE, della Commissione Europea, quindi è stato finanziato da un progetto europeo. È un film che ha richiesto molti anni di gestazione, perché sono stati seguiti dei gruppi di genitori, delle famiglie, con l'appoggio di psicologi che mi hanno affiancato per creare una storia che si sviluppa nel tempo, perché è appunto un percorso interiore che doveva essere raccontato perché nessuno l'aveva ancora fatto. Quindi un film di forte emozione, di forte impatto emotivo sugli spettatori, assolutamente trasversale, cioè anche verso gli spettatori che non hanno mai avuto a che fare direttamente con persone omosessuali in famiglia o fuori dalla famiglia. Quali sono le caratteristiche che accomunano un po' tutte queste storie? Che dinamiche ci sono? Ma forse la caratteristica maggiore è quella del non esserselo aspettato, o forse anche in qualche caso dell'esserselo aspettato, ma di non avere la minima idea di come gestire questa eventualità. Cioè quello che accomuna è che i genitori, nel novero di tutte le possibili cose che possono accadere ai loro figli, non hanno mai messo quella dell'omosessualità, e questo causa una serie di rimorsi e di sensi di colpa e di paure nei genitori, che devono essere affrontati ed elaborati, perché pensano subito di avere commesso degli sbagli, oppure si sentono il rimorso di non aver saputo affiancare i figli in un momento di crescita che loro non hanno neanche intravisto. E questo causa sicuramente una difficoltà all'interno delle famiglie. E poi dopo, quello che accomuna i personaggi del mio film sicuramente è quello che hanno è l'aver voluto fare un percorso. Molti altri purtroppo magari non lo fanno. Un percorso che non è di accettazione e basta, perché accettare è un po' quasi dire io sono superiore a te e ti tollero, ti accetto io, ma il percorso è diverso, è quello di fare loro genitori un coming out personale, cioè avere loro il coraggio di non vergognarsi più dei loro figli, e questo vuol dire parlarne con gli amici, vuol dire affrontare una prospettiva diversa nel vedere le loro famiglie. Oh, mi parlavi di questa associazione di genitori da cui è partito il progetto. Le loro attività cosa comprendono? L'attività di Agedo, che è estesa su tutto il territorio nazionale, comprendono a un primo stadio sicuramente quella dell'aiuto e della solidarietà ai genitori che chiedono all'associazione come, diciamo, affrontare la novità che hanno appena saputo, di solito, perché quando si rivolgono alla gente è per questo. Ma su un altro livello poi l'associazione promuove attività soprattutto nelle scuole di tipo formativo, rivolte anche agli psicologi, gli educatori e ai genitori, perché si possa far fronte al non sapere, perché quello che è il più grosso dei problemi è proprio l'ignoranza, e la scuola è il terreno più importante dove agire in questo senso. Oh, due cose volevo sapere da te: se sono stati sotto tiro di attacchi omofobi e se sono stati sotto tiro di attacchi omofobi come struttura. No, l'associazione no. E se scontano anche una sordità da parte delle istituzioni? Io sento sempre meno, purtroppo. Non capisco da cosa dipenda. E se scontano anche una sordità da parte delle istituzioni? Ma le istituzioni, devo dire, a fronte di un'associazione che non è, ha caratteristiche appunto di appoggio alle famiglie, quindi non è un'associazione politicizzata, è assolutamente trasversale rispetto a questo, non è una militanza che può essere vista in modo fastidioso, per cui le istituzioni in realtà hanno una posizione di grande collaborazione. Anche indipendentemente dal colore politico, devo dire, molto spesso, certo, con approcci culturali diversi, però faccio l'esempio del film. Il film è stato appunto prodotto in seno a un progetto della Commissione Europea, già questo è una garanzia anche agli occhi degli assessorati, per esempio all'educazione, che si muovono col film. Adesso abbiamo in gestazione un progetto col Ministero Pari Opportunità per entrare nelle scuole. Il Comune di Torino ha acquisito centinaia di DVD per le biblioteche civiche e per lavorare con i formatori e con gli insegnanti, quindi ci sono delle sensibilità. Certo, è un lavoro che non è iniziato da poco, è un lavoro che è iniziato dai primi anni 90, quando è nata Agedo, e allora le porte erano davvero chiuse, quindi è un lavoro lungo, che però vedo che pian piano sta dando dei frutti, almeno a questo livello. Oh, Claudio, per saperne di più sul tuo documentario, materiali online c'è il sito ufficiale del film, dove c'è il trailer, la rassegna stampa, le proiezioni pubbliche in giro per l'Italia, perché ne facciamo tantissime, i DVD e via dicendo. Il sito ha lo stesso titolo del film, tutto in lettere, due volte genitori.com. Poi l'occasione del 16 per i romani è sicuramente molto interessante. Alle 21 saremo in sala con i genitori di Agedo, ci sarò io per accogliere il pubblico. Il film inizierà alle 21:30 al cinema Nuovo Aquila al Pigneto. E poi da lì sarà in programmazione. Pronto? Sì, la programmazione in realtà questa, forse l'equivoco è che questa è una fine della stagione, nel senso che il film ha fatto una volta al mese la sua serata al Nuovo Aquila, e adesso che il Nuovo Aquila si avvicina alla chiusura della stagione abbiamo, diciamo, approfittato della giornata mondiale contro l'omofobia per fare quest'ultima serata. Poi riprenderemo dopo l'estate. Quindi una festa di arrivederci. È una festa di arrivederci, perché comunque una caratteristica importante che va sottolineata è che questo film, pur essendo un documentario e quindi avendo dei pregiudizi distributivi, se vogliamo dire così, perché è difficile distribuire i documentari in Italia, ha una tenuta nel tempo, perché ha un interesse che si rinnova continuamente, e quindi è da un anno e mezzo che lo portiamo in giro e continuiamo a fare tantissime serate. Bene Claudio, allora in bocca al lupo e a risentirci presto. Grazie mille e buona visione a chi verrà. Spero numerosi. Un abbraccio, ciao. Grazie, ciao. Claudio Cipelletti, regista del documentario Due volte genitori, a Roma al Nuovo Cinema Aquila il 16 maggio. Finalmente ci siamo con Pietro Balla, regista del documentario Radio Singer. Pronto, ci sei? Sono qui. Eccoci. Perché già ti avevamo inseguito una volta, non era andata bene, però ora ce l'abbiamo oggi fatta. Oggi rischiava di andare pure peggio. Allora, io ho detto Singer, ma in Italia è nota come Singer. Esattamente, sì, perché era la macchina da cucire, anche se loro non facevano macchine da cucire, loro facevano lavatrici e frigoriferi. Allora, la storia di una industria tedesca alle porte di Torino che è anche una storia operaia e di lotte e rivendicazioni. Sì, è anche una storia individuale di due persone che insomma avevano una storia d'amore, quindi ci sono tre piani che si incrociano. La fabbrica chiuse nel 1979-80 dopo 6 anni di alterne vicende in cui si passarono dalla cassa integrazione e poi alla fine alla dismissione completa. Faceva elettrodomestici bianchi, come venivano chiamati, ed era la vecchia fabbrica dei frigoriferi della Fiat. Non so se mai qualcuno ha visto un frigorifero Fiat, ma la Fiat faceva frigoriferi anche, che sta rilevata da questa multinazionale e che dopo la prima crisi, il primo shock petrolifero all'inizio degli anni 70 registrò un fortissimo calo delle vendite a causa appunto di questa dei problemi che all'inizio degli anni 70 attraversavano economicamente le famiglie italiane, che assomigliano abbastanza a quelli di oggi peraltro, e quindi questa fabbrica era 2000 operai ed era collocata nell'interland torinese, in un paese che si chiama Leini, si trasformò improvvisamente in una cosa strana per quel periodo, perché non siamo subito dopo il boom economico, non si è mai vista una cosa di questo genere, è una specie di ultima trincea dove questo gruppo insomma di operai cominciò una lotta che durò diversi anni e che loro intuirono che bisognava esportare oltre i cancelli della fabbrica per riuscire a renderla, come dire, a condividerla con il territorio circostante. E una delle cose che fecero fu proprio una delle manifestazioni che utilizzarono fu proprio la radio. Una radio che si chiamava Radio Singer, che fu una delle prime radio, delle prime tre radio radio libere, come si chiamavano allora, in Italia. Oh, come funzionava Radio Singer? Radio Singer era una radio messa sul campanile, dentro il campanile della parrocchia di Leini. Aveva un trasmettitore dei B52 ed è stata una costola di Radio Brava Onda Rossa, che in assoluto è ritenuta la prima radio libera, una radio che vide tra i promotori Dario Fo e che praticamente il gruppo di Radio Brava Onda Rossa si trasportò paro paro un decennio dopo dentro Slow Food del Gambero Rosso, prima il Gambero Rosso come supplemento al Manifesto e poi come in Slow Food. Quindi era una, diciamo che in quegli anni, anzi in quell'inizio, siamo nel 1976, sì, e la Corte Costituzionale ha appena legiferato, non si dice, ma comunque ha appena stabilito che il monopolio della RAI sull'etere è anticostituzionale, quindi siamo nella preistoria del mondo, insomma. del mondo dell'etere, ecco, sì. Poi da allora in poi tutti potevano accedere, si fa per dire tutti, all'etere, e da quel momento in poi nacquero per questo nacquero le radio libere, anche se ancora nel primo anno non era così chiaro, infatti vennero chiuse sia Radio Brown da Rossa che Radio Singer con l'intervento della polizia postale. Quali attività è riuscita a mettere in piedi prima della chiusura forzata? Dunque, sì, loro come radio erano, che ne so, le prime rassegne stampa, avevano una rassegna stampa, avevano tutto quello che adesso si ha, naturalmente era io queste cose le posso dire perché ho avuto l'accesso a parte dell'archivio che non è andato perso, quindi registrazione di trasmissione, cose di questo genere. Mi mandavo in onda canzoni, soprattutto musica, che faceva riferimento al movimento e alla lotta sostanzialmente, avevano rassegne stampa, facevano radiodocumentari, nel senso che quando la Singer venne a Roma a manifestare sotto il Ministero dell'Industria con Don Cattin, ministro del lavoro, e loro vennero e registrarono parte della manifestazione e poi l'hanno trasmessa in un momento successivo, quindi avevano un'idea, diciamo così, molto avanzata del come si faceva comunicazione. Poi in verità chiaramente erano tutta gente come noi, che erano operai, non avevano nessuna formazione giornalistica, nessuna particolare pregresso accademico che gli permettesse di affrontare l'informazione anche in una maniera professionale, però avevano intuito molte cose. Tra le tante cose che avevano intuito, come dicevo prima, era che la lotta non doveva stare dentro i cancelli della fabbrica. Adesso sembra una stupidaggine dirlo perché ormai non possono gestire nemmeno più la fabbrica. Comunque allora per esempio cominciano a fare dei concerti e portarono la gente in fabbrica. Hanno portato l'orchestra sinfonica dell'orchestra del Re Journal, una delle prime volte in cui il Re uscì dalla sua cattedrale e andò fuori, non so, arrivò Living Theater, per esempio. Living Theater stanziò, restò per 2 mesi e mezzo a Torino e creò delle performance particolari per la Singer. Una si intitolava Requiem Singer, per esempio. Abbiamo anche delle registrazioni di questa performance della Singer, sono rimaste registrazioni. Guccini, vabbè, i soliti Guccini, Milva, passarono di lì, insomma, che in quel momento erano gli esempi, persone che meglio incarnavano questo tipo di, insomma, cultura alternativa, anche se non era proprio detta così, però. Senti Pietro, gli operai, facendo riferimento a qualche organizzazione politica auto-organizzata, e poi materialmente quanto è andata avanti l'attività della radio? Allora, l'attività della radio è andata avanti un anno e mezzo. Si è spenta perché a un certo punto l'aria della sconfitta cominciava a aleggiare. Loro hanno dichiarato adesso, a posteriori, dopo molti anni, che hanno cominciato a non reggere più tanto perché le pressioni della polizia postale erano molto forti, quindi loro, per anticipare un'eventuale irruzione della polizia postale, chiusero la radio sapendo che doveva arrivare 2 o 3 giorni dopo. Questo però non ho testimonianze, come dire, cartacee, sono solo racconti che loro fanno, però è abbastanza giusto. La cosa interessante di questa lotta è che non aveva dei riferimenti precisi, infatti ancora oggi diciamo che loro, e questo era lo fantastico mondo degli anni 70, ruotavano a grosso modo intorno alla CISL. La CISL in quegli anni a Torino soprattutto era di una varietà di influenze che meriterebbe un'attenta analisi, perché andavano dei cattolici più a una visione veramente diciamo estrema, insomma, con molto conflittuale della società. e partiva da questo gruppo che ruotava grosso modo intorno alla CIS, ma che non ha mai fatto poi riferimento a Tinder, tant'è che ancora oggi continuano a dire, ad avere una fortissima nostalgia per quella che allora era una sigla fantastica, che era la FLM, la Federazione della Rotoria di Termeccanici, che per loro continua a essere un sogno ancora oggi, nonostante nel documentario più volte lo dicono che quindi era così solido questo gruppo e anche distaccato in qualche maniera poi alla fine e autonomo nell'elaborazione, che ancora oggi sopravvive in qualche maniera. Questi sono ex promotori della Singer che ancora oggi mantengono legami che non sono solo legami amicali, ma sono anche dei legami di produzione, di, che ne so, loro si occupano, sono diventati un po' terzomondisti alcuni, per cui si occupano di sostenere alcune missioni in Africa, sempre con questa visione molto slegata da qualsiasi sigla e molto propositiva a livello proprio di gruppo e di idee loro. Oh Pietro, come ti sei informato? Come hai fatto? Come hai svolto il lavoro? Hai fatto interviste? Ti sei documentato? Hai avuto accesso a una bibliografia oltre che all'archivio della radio? Allora, prima di tutto l'idea iniziale parte da loro, da questo gruppo. Sì. Quindi loro hanno messo a disposizione tutto l'archivio. Io ho avuto modo di recuperare altre cose, perché naturalmente un po' perché si dimentica, no? E quindi ho recuperato alcune cose, ma il grosso del materiale l'ho messo a disposizione loro. C'è stata una fortuna in questa storia notevole dovuta al fatto che uno di questi lavoratori era appassionato, adesso si direbbe filmmaker o videomaker, allora era semplicemente un amatore, aveva una cinepresa Super 8 e ha girato moltissimo materiale. Poi lui ha trasformato questa passione, è diventato un fotografo, ha aperto poi un negozio di fotografia a Leni e quindi ha girato molto materiale in Super 8 e ha girato molto materiale in magnetico. Allora si usava il 3/4 pollice ed erano delle cose che usava anche Griffi. Infatti siamo anche andati da gente che ha lavorato con Alberto Griffi per cercare di riuscire a vedere queste cassette, perché erano dei nastri, non erano cassette vere e proprie, insomma, e poi non siamo riusciti. Quindi c'era il materiale di testimonianze, di materiale visivo era sterminato proprio, per cui abbiamo avuto, naturalmente venivano filmate assemblee, venivano manifestazioni, venivano filmate momenti di distribuzione, per esempio di volantini al mattino, in mezzo alla nebbia, insomma, sono immagini anche molto forti. Quindi abbiamo avuto questa fortuna e poi abbiamo avuto accesso a parte dell'archivio audio, che sì, consisteva fondamentalmente in tutta la parte musicale. Loro registravano, come si faceva una volta in tutte le radio, gli LP o il vinile, lo trasferivano su audiocassette che poi venivano inserite. Quindi c'erano molte audiocassette, ma c'erano anche molte registrazioni. Il problema è che la polizia postale ha sequestrato, non so in quale momento, non so dove, questo si perde un po', molto delle bobine proprio, delle bobine di registrazione, perché loro registravano tutto, perché erano obbligati a registrare tutto dalla polizia postale. Mm-hmm. Tutto questo materiale venne sequestrato, per cui di registrazioni vere e proprie diciamo che abbiamo recuperato poche ore. Il grosso erano la musica che loro mandavano, insomma. Okay. E la musica del film, del documentario, quasi tutto, per l'80% è musica presa dalle audiocassette loro. Senti, ma il materiale rimasto è stato digitalizzato? Ancora... Questo è il bello, il materiale rimasto e abbiamo tentato con le nostre scarsissime risorse di farlo rientrare in qualche maniera in un progetto di digitalizzazione, ma non ci siamo riusciti. Mm-hmm. Il materiale rimasto è interessantissimo dal punto di vista video, perché noi abbiamo avuto accesso, diciamo, ad una piccola parte di questo grande archivio, solo che bisogna intervenire come tutti gli archivi disordinati, bisognerebbe intervenire, ordinarlo, vederlo, avere la possibilità di vedere per esempio questi 3/4 pollice, che non abbiamo visto, che anche lì del materiale che è inclassificato, però insomma abbiamo cercato ma non ce l'abbiamo fatta, anche perché costa un pacco di molti soldi fare questo lavoro qua, noi non potevamo farlo e nemmeno abbiamo tentato dei sondaggi verso gli enti pubblici, insomma, e non abbiamo ottenuto nulla. Senti Pietro, invece per quanto riguarda le testimonianze, avete fatto molte interviste? No, non moltissime, abbiamo raccolto tutte le testimonianze di questo gruppo, del nocciolo duro di questo gruppo a cui facevamo riferimento, e poi anche con altri lavoratori, ex lavoratori, adesso sono pensionati, ex operai che sono pensionati. Diciamo che abbiamo cercato di farci raccontare soprattutto la storia da parte dei protagonisti veri, e naturalmente il fatto che siano in pensione adesso e sparsi chissà dove, alcuni sono anche mancati, diventa molto difficile insomma fare un lavoro scientifico, cioè il campione non ha nessuna rilevanza in questo senso. A noi sembravano le persone giuste, noi abbiamo interessato poi una dozzina, quindicina di persone, a cui abbiamo aggiunto anche un giornalista che è Salvatore Tropea, che lavorava allora alla mitica Gazzetta del Popolo, un giornale chiuso negli anni 70, l'unica alternativa vera alla stampa a Torino, e quindi che ha vissuto poi in quel periodo come giornalista vero, quindi sono lavoratori, operai e poi c'è Salvatore Tropea che è un giornalista. Per saperne di più, anche il tuo documentario, prima abbiamo sentito Girls on the Air, Valentina Monti, è stato programmato all'interno della rassegna Italia Doc. E su internet, per saperne di più su eventuali date o per mettersi in contatto con te, c'è qualche riferimento? Ah, c'è il sito di Deriva Film, che è la casa di produzione di Radio Singer. Si mette Deriva Film dentro Google, comunque www.derivafilm.it. Il sito non è aggiornatissimo perché siamo piccoli e annospiamo come tutti, per cui, però diciamo che c'è questo Radio Singer, c'è un po' di materiale e se riusciamo cerchiamo di aggiornarlo anche rispetto alle proiezioni. Allora ci sentiamo presto, spero. Grazie, buon pomeriggio. Un abbraccio, ciao Pietro. Ciao. Pietro Balla, regista del documentario Radio Singer, andiamo avanti. Di nuovo con noi, è sempre un piacere, Giorgio Diritti, regista del film L'uomo che verrà pronto. Ciao, ben trovato. Ciao, saluti a tutti voi, come va? Bene, tu? Bene, nella pioggia bolognese, ma tanto è così, insomma. Allora, terza puntata per quanto riguarda il tuo film qui da noi, perché ne abbiamo parlato con te in occasione della presentazione al Festival del Cinema di Roma, ne abbiamo riparlato in occasione dell'uscita in sala e adesso in occasione di nuovo ritorno in sala dopo i David di Donatello, ne parliamo nuovamente. Sì, l'occasione, come dire, è ben gradita per tutti e due i motivi che hai citato. Uno, perché il film ha vinto il David come il miglior film, cosa che mi ha fatto sicuramente molto piacere, di grande prestigio, insomma, e ricordando da dove si è partiti, col vento fa il suo giro, insomma, come piccola casa indipendente, eccetera, è una bellissima cosa. E poi la cosa bella è anche che con questa riuscita chi non ha visto il film, chi non ha avuto occasione può correre a rivederlo, diciamo così, o meglio a vederlo. Allora, lo raccontiamo anche per chi ci ascolta e non lo conosce, si tratta di uno dei più efferati eccidi nazisti durante la ritirata, durante l'occupazione qui in Italia. Sì, in realtà il film prende, diciamo, ha come riferimento la vicenda della strage di Mazzabotto, però è un film che soprattutto parla della vita, del valore della vita, che ci racconta la memoria di quella che era l'Italia negli anni 40-50, le nostre radici contadine, la dimensione di quello che era il rapporto fra gli uomini e le persone e le famiglie in quell'epoca lì. Il tutto visto negli occhi, tramite gli occhi di una straordinaria bambina di 8 anni che si pone nella logica, diciamo così, dell'osservazione delle cose con quell'innocenza che ci fa anche capire come man mano le vicende della guerra siano cose totalmente estranee alla logica di ogni persona, non sono certo nell'interesse di nessuno, non sono nel desiderio di nessuno, ecco. Oh, proprio a proposito di memoria contadina, uno degli aspetti tecnici, secondo me, di maggior prestigio del tuo film è quello appunto di girare come e di ritrovarsi in un mondo che sembra quello lì degli anni 40, mondo contadino, con luci naturali, un'attenzione ai costumi e anche all'ambientazione. Sì, la scommessa fin dall'inizio della preparazione del film, grazie agli straordinari collaboratori che ho avuto, Cimatti alla fotografia, Balisi alla scenografia, Elia Morandini ai costumi, l'intenzione fin dall'inizio era di mettere lo spettatore in una specie di macchina del tempo, cioè di rendergli possibile entrare nel 1944, di essere parte di quella famiglia e di vivere appunto le vicende di quella quotidianità. Questa era un po' l'idea, cioè è poi nella mia cifra stilistica l'idea di un cinema che non è spettacolarizzazione, che non è, diciamo così, rappresentazione, ma è soprattutto coinvolgimento dello spettatore in una dimensione quasi reale, in cui si sente calato come se ne fosse parte. Oh, in continuità poi col tuo film d'esordio, Il vento fa il suo giro, hai utilizzato attori presi tra gli abitanti della zona e l'uso del dialetto poi. Sì, c'è stata questa scelta. Quando abbiamo, diciamo, messo insieme tutti gli elementi del film, è apparso altrettanto naturale, per un senso di verità e di realismo, diciamo così, usare anche la lingua che si usava allora, perché era segno comunque di un rapporto anche con i forestieri che arrivavano, con i tedeschi, con le gerarchie, diciamo, fasciste, eccetera. Era una dimensione per capire quanto in un certo senso fossero una comunità a sé, fuori dal mondo, ma qui in quello quella gente era comunque una comunità, voglio dire, ben forte, unita, con dei valori straordinari di solidarietà, di condivisione, eccetera. Quindi ancora di più poi l'elemento della guerra e dell'eccidio alla fine diventano, diciamo, drammatici e forti, proprio perché prima hai avuto la condivisione e il piacere di stare per un'ora e mezza assieme alle persone che sono i tuoi familiari, i tuoi nonni, bisnonni, insomma. Oh, per quanto riguarda l'idea, la produzione e la realizzazione di questo film, cade anche in un periodo storico particolare, perché per esempio il processo per quell'eccidio nazista si è svolto con diversi decenni di ritardo. Sì, a 60 anni di distanza e ha avuto in pratica la sua risposta effettiva, diciamo, la chiusura del processo è stata proprio durante l'inizio delle riprese, poco prima dell'inizio delle riprese, insomma, e credo che per tutti i sopravvissuti a questa strage, per chi ha avuto 14 familiari morti, eccetera, sia comunque un riappropriarsi di dolore da un lato, ma anche di giustizia, di riconoscimento di un martirio che queste persone hanno fatto, di un martirio che io mi auguro vivamente sia un segno per le future generazioni e per noi stessi, perché lavori affinché la guerra sia considerata una cosa estranea, affinché il dialogo, la convivenza umana pacifica abbiano sempre il meglio, ecco, questo è poi il leitmotiv del film stesso, cioè è in questo c'è il suo essere attuale. Purtroppo in altre regioni del mondo situazioni simili a quelle che io racconto sono accadono ancora o sono accadute molto di recente, basta pensare alla vicina ex Jugoslavia. Bisogna lavorare, credo, tutti, ognuno nel suo piccolo, per costruire una dimensione di convivenza dove il valore della vita è al primo posto, il rispetto dell'altro è al primo posto. Poi si possono avere anche idee differenti, ma bisogna sempre tutelare in assoluto la vita dell'altro. Oh, Giorgio, allora da domani nuovamente nelle sale, con quante copie? E poi se ci sono, chi volesse informarsi in internet, se ci sono riferimenti. Sì, i riferimenti sono sicuramente nel sito dell'Uomo che Verrà, che è uomocheverrà.com, e poi anche nel sito di Mikado può trovare insomma, le indicazioni oltre ai soliti siti più conosciuti per la programmazione. Il film riesce quasi insomma, in tutte le città capozona e anche in provincia con più di 50 copie, insomma rimettiamo in gioco tutta la macchina, di questo sono molto contento e ringrazio Mikado per l'entusiasmo che sta mettendo in questo rilancio del film stesso. Oh, un'ultima cosa, la risposta, poi non ci siamo, non abbiamo più avuto modo di parlarne, ma la risposta nei luoghi interessati da quell'episodio, quel tragico episodio storico, quali sono state? Ma la risposta è stata di grande apprezzamento, condivisione, ringraziamento, è stata una delle cose più belle. Tra l'altro il 25 aprile siamo stati lassù a Mazzabotto, dove c'erano varie iniziative, ma quella che ci ha contraddistinto, diciamo così, è stato un lavoro fatto da tutte le scuole della Valle del Reno, delle zone limitrofe, insomma, delle due valli limitrofe alla zona di Mazzabotto, dove i ragazzi hanno visto il film, hanno realizzato delle poesie, dei disegni, dei piccoli temi che noi abbiamo letto assieme agli attori della troupe, alla troupe stessa, il 25 aprile, inframmezzando il tutto con canti tratti dalle musiche del film, eccetera. È stato un momento bello tanto quanto il film, anche perché come si suol dire, quando vedi che le giovani generazioni sono coinvolte e colpite e partecipi del significato profondo che aveva questo lavoro, vuol dire che per il futuro c'è da ben sperare, insomma abbiamo seminato in questi ragazzi, penso che resterà forte un senso civico di tutela della vita. Bene Giorgio, è sempre un piacere averti con noi. Anche per me essere con voi, poi insomma siete stati vicinissimi all'inizio della mia avventura e quindi è come essere a bere un buon bicchiere in osteria. Un abbraccio e alla prossima. Ciao, un abbraccio Federico. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Giorgio Diritti, regista del film L'uomo che verrà, da domani nuovamente nelle sale. Di nuovo con noi Alessandro Agostinelli, autore del libro Un mondo perfetto, i comandamenti dei fratelli Coen, ben ritrovato. Ciao, buonasera a tutti. Come va? Bene, bene, siamo in promozione per questo libro dedicato ai Coen. Allora, come nasce l'idea, il progetto, come l'hai portato avanti? Ma diciamo che l'idea è nata tantissimi anni fa, perché ormai più di 15 anni fa e passa, io ho fatto una tesi sui fratelli Coen e poi mi sono dedicato, diciamo, allo studio del cinema americano, perché sono stato a Berkeley, ho studiato un po' lì per il dottorato, e questa passione per i Coen è rimasta intatta. Infatti nel corso degli anni sono andato a vedere tutti i loro film quando era possibile in lingua originale, oppure mi sono sorbito il doppiaggio italico e niente. Poi nel corso del tempo, diciamo, è venuta fuori questa specie di monografia. Sono più di 10 anni che non esce un libro in Italia e in Europa dedicato ai fratelli Coen. L'ultimo è stato una traduzione di una biografia inglese di Ronald Bergan del 2001, e prima c'era stato solo il Castorino nel 1998 fatto da Buccheri, e quindi ho pensato di colmare un po' una lacuna, diciamo. Pensa, io ho avuto la fortuna di conoscerli fin dal loro primo film, Blood Simple. Sì. Senti, come definiresti il cinema dei Coen? Beh, è una definizione difficilissima. Io ho usato una frase di Pasolini, solo nella tradizione è il mio lavoro, diciamo, più moderno di ogni moderno. In realtà loro decostruiscono, rifanno un po' il cinema, certo cinema anche degli anni 40, in realtà però con un piglio e uno stile tutto loro, insomma. Penso che abbiano decisamente rinnovato il cinema d'autore americano. Mm-hmm. Oh, che bibliografia hai consultato per dar vita a un'opera? come ti sei documentato? Mi sono documentato su tutto quello che era possibile trovare, chiaramente di pubblicato su riviste, quindi soprattutto le riviste italiane, francesi e americane. Sì. E poi su tutti i testi americani, diciamo, che sono usciti su di loro. In questo sono stato aiutato, diciamo, dal fatto che c'era appunto un lavoro enorme che ho fatto durante il mio soggiorno negli Stati Uniti. Oh, quanto ti è costato in termini di sforzo, di tempo anche questo lavoro? Di tempo tantissimo, è un lavoro che ho portato avanti per una decina d'anni, diciamo. Quindi sì, tantissimo tempo, chiaramente non continuativo, però diciamo che sono rimasto incollato, diciamo, al loro cinema per tanti anni. Penso che il libro, scritto in maniera abbastanza semplice, però sia anche molto, come dire, puntuale relativamente alla critica, che tutta quanta la critica, tutto quello che è stato scritto sul cinema dei fratelli Coen. Oh, per saperne di più su internet, dove bisogna andare a cercare? Ma intanto Edizioni Controluce, che fa questa nuova collana, Un Mondo Perfetto, I Comandamenti dei Fratelli Coen, Alessandro Agostinelli, titolo e autore, diciamo, questo è il modo per trovare appunto il libro su internet. Poi il 4 giugno facciamo la presentazione con Veronica Paradelli, che insegna storia del cinema a Roma 3, alla Mediateca Regionale Toscana, insieme anche a Alessandro Benvenuti e Giovanni Bogani, che è il critico della Nazione. E poi credo che, insomma, ci sarà, stanno contattando da Ischia Festival per andare a presentare il libro, da Biografilm a Bologna. Quindi ci sarà un calendario, insomma, sì. Sì, senza dubbio. Senza dubbio ci sarà un calendario, soprattutto sarà aggiornato, diciamo, dall'editore Edizioni Controluce di Lecce, diciamo. Va bene, Alessandro, allora in bocca al lupo, io ti abbraccio e ci risentiamo presto, magari per il festival, il tuo festival. Ah, il Festival del Viaggio. È il Festival del Viaggio. Dal 9 al 12 giugno a Firenze, sì. Bene, certo, bene, certo. Bene. Allora un abbraccio e ci risentiamo magari in quell'occasione. Benissimo, un saluto a tutti. Anche ciao. A te, ciao. Oh, Alessandro Agostinelli, autore del libro Un Mondo Perfetto. Mondo Perfetto, I Comandamenti dei Fratelli Coen. Ancora c'è tempo, visto che la trasmissione, la seconda società quest'oggi non c'è, quindi andiamo avanti ancora per qualche minuto prima dell'appuntamento con il radioteatro. Patrizia, eccoci qui, Patrizia Salvatori. Ciao. Del Cineclub Alphaville, cosa ci proponi questa volta? Questa volta vi propongo una cosa che può sembrare scontata, ma in realtà non lo è, perché in realtà è il mitico regista francese Alain René nelle sale con Gli Amori Folli, e quindi noi abbiamo pensato, veramente, guarda, io l'ho pensato con estrema fatica, lo amo molto, però penso che sia un regista, come dire, un pochino da prendere a piccole dosi, da iniziare passo passo, insomma, e quindi abbiamo pensato che Alain René potesse essere il protagonista di una retrospettiva, di una selezione monografica che non prevede ovviamente tutti i suoi titoli, però insomma prevede una parte di titoli abbastanza noti e che sono talmente diversi nei generi da portare lo spettatore attraverso appunto l'opera omnia di questo grande, veramente grande regista francese, che adesso ha 88 anni. e che però mi sembra più vivace, continua come a dire. Girare insomma, no, ma è sorprendente la Rene, lo dico con molta franchezza, innanzitutto perché è un regista insomma che ha frequentato la Nouvelle Vague ma non si è mai dichiarato apertamente Nouvelle Vaghista, un regista di origine bretone che ha sempre tentato, sperimentato, unendo una sperimentazione teorica anche ad una sperimentazione pratica, perché non ci dimentichiamo che la Rene è un grande, diciamo, costruttore di immagini, ma lo è anche dal punto di vista tecnico. Lui stesso si occupa del montaggio, se ne è sempre occupato, così come si è sempre occupato della post-produzione. Insomma, in realtà lui ha sempre eseguito un'opera dall'inizio alla fine, dall'idea, dal soggetto fino alla fine, o dalla trasformazione del soggetto in un trattamento magari da altre opere. Mm-hmm. E poi una caratteristica, diciamo, importantissima di questo davvero autore particolarissimo è il suo lavoro sulla memoria. Infatti la rassegna si chiama appunto La Rene, il tempo della memoria, proprio perché diciamo che una delle sue caratteristiche è quella di utilizzare tutti i segni cinema del linguaggio propriamente cinematografico a favore di una, come dire, costruzione narrativa che privilegia appunto con una particolare, diciamo, immagine visiva che poi sta in tutti i suoi film, privilegia una narrazione cinematografica diversa da quella tradizionale e quindi combinazioni narrative in cui lo spazio e il tempo assumono dimensioni diverse. Esempio, ieri abbiamo fatto vedere Hiroshima Mon Amour, che in tutti i manuali di storia del cinema davvero viene indicato come un film in cui il montaggio spazio-tempo assume, come dire, delle caratteristiche che forse in nessun altro modo sono state così palesi e chiare. Va anche detto che comunque Alain René è anche un regista capace comunque di divertirsi e di divertire. Naturalmente non sono quel genere, insomma, anche lavorando sulla memoria e anche lavorando sui tempi, il passato, il presente e il futuro, è sempre comunque stato e lo è ancora tuttora, insomma, un regista di commedia anche, non so, cito per citare i due film gemelli Smoking, non so se l'hai visto Federico, non so se l'avete visto voi, già magari li vediamo insieme. Sì, Smoking, sì, sì, no, che sono due film eccezionali tratti da quel folle ma grande, insomma, geniale autore di teatro che è Borna, che insomma dal mio punto di vista sono veramente spiritosi e hanno spiritosi, intelligenti, ben costruiti. C'è quella famosa frase "se invece", che poi ha dato la possibilità a molto cinema di oltreoceano, molto cinema americano, di cimentarsi con queste ulteriori possibilità della vita, no? Succede una cosa e se poi non succede, che succederà? Esempio, Sliding Doors, per dire, no? Sì, non so sì. Se ci ricordiamo. Però alla René, insomma, di queste cose era, come dire, uno sperimentatore già prima. Ecco, per dire, il grande Mononcle d'Amérique che diamo questa sera, dove appunto c'è questa sperimentazione vera e propria del Labourin, del grande scienziato Labourin, che guarda con l'occhio dell'entomologo questi tre personaggi, però tutte le sue teorie non corrispondono poi in realtà alla vita che casualmente o no questi tre personaggi conducono. C'è un modo davvero, quello della Rene, di guardare alla vita, alle persone, alla commedia della vita davvero in maniera precisa ma anche divertita, ma anche disincantata, ma anche originale, utilizzando sempre appunto questi raccordi temporali anche in serie di montaggio e quindi anche in serie di linguaggio cinematografico. Mi sembra davvero un regista, insomma, che un po' tutti dovremmo guardare o riguardare se l'abbiamo già visto. Noi terminiamo con Cuori e come facciamo vedere anche Parole, che è un film davvero spassoso sulle canzoni francesi. Vi ricordo tra l'altro che molti dei suoi film hanno come protagonista Sabine Azéma, che è stata anche sua moglie per lungo tempo, e vi ricordo anche che Cuori, il penultimo film, è davvero eccezionale, nel senso che a me personalmente è sembrato l'occhio prustiano, ecco, tanto per fare un esempio letterario, mi è sembrato che René fosse sempre più vicino al grande modo di narrare e di guardare la commedia della vita, che è proprio delle Madeleine di Marcel Proust, almeno a me. Poi non lo so, poi guardiamoli insieme. Comunque l'ultimo film è bellissimo e dunque a maggior ragione, visto che gli altri insomma sono, come dire, secondo me una costruzione, no? Nelle opere di un regista insomma c'è sempre una costruzione. È vero che qualcuno dice che i grandi registi fanno sempre gli stessi film, però insomma nel caso di René però io non credo, ecco, questo voglio dire, non credo. credo. I film sono molto diversi per genere, è il temperamento e la capacità che è lo stesso. Aggiungo soltanto una cosa, proprio perché appunto la René non si è mai considerato davvero un portatore sano, cioè vicino alla Nouvelle Vague, ma non assolutamente all'interno della Nouvelle Vague come vari Godard, Rivette, eccetera. Proprio in un'intervista recente che è stata rilasciata da lui giorni fa, non poteva essere in Italia in questi giorni per la presentazione appunto del suo ultimo film nelle sale, ha rilasciato questa intervista in cui lui ha detto una cosa che appunto è assolutamente non Nouvelle Vague, e cioè che non crede al cinema d'autore e che lui non vorrebbe essere nei titoli di testa, perché il film è un rapporto, come dire, è una costruzione corale, collettiva, anzi ha detto esattamente, in cui non è soltanto lui raccorda, cioè il regista, o quindi in questo caso lui, raccorda una serie di competenze, di professionalità e di intuizioni che non sono uniche, ma sono tante. Questo Nouvelle Vaghista non l'avrebbe mai detto. Ecco, e con questo vi dico insomma di venire a vederlo, perché secondo me, anche se ci vuole un po' di fatica, io non l'ho mai proposto nel passato perché mi sembra che ci voglia veramente un minimo di, cioè certo, dopo una serata in cui si è magari vissuto una giornata difficile, avvicinarsi alla René, capisco che possa richiedere una qualche attenzione, uno sforzo aggiuntivo, però posso dire che dopo la qualche attenzione, secondo me viene fuori veramente una bella serata. Allora Patrizia, rimandiamo al sito del Cineclub Alphaville e ci salutiamo e ci dia appuntamento alla prossima. Ma sì, naturalmente, buon pomeriggio, ciao Federico, ciao, un abbraccio, ciao ciao. Bene, siamo in chiusura con Visionari di quest'oggi, 13 maggio del 2010, 87.900 la modulazione di frequenza, questa è Radio Onda Rossa. Tutte le informazioni potete andare a controllarle sul sito della radio, il nuovo sito della radio, www.ondarossa.info, la voce trasmissioni, troverete la scaletta di Visionari con gli ospiti di questa settimana, le uscite in sala, i nostri suggerimenti sui film già in programmazione, e poi link per interviste, conferenze stampa, recensioni, presentazioni e la programmazione dei film sul piccolo schermo, ed è tutto. Non c'è la seconda società dopo di me, ma tra poco meno di un quarto d'ora l'appuntamento, secondo appuntamento settimanale con il radioteatro, quest'oggi con Guerriglia Live Show alle 15.30, Margine Operativo, una creazione di Margine Operativo. Sentiremo lo spettacolo e poi ci metteremo in collegamento con loro, quindi a tra poco, mentre Visionari torna giovedì prossimo sempre alle 14.